Benvenuti cari amici vagabondi alla seconda puntata di Vagabondo in giro per il mondo. Come sempre al microfono per voi il vostro speaker vagabondo Fumino, e vagabondando per il mondo ho puntato il focus su un comportamento molto comune delle persone dal quale non certo io sono esente, vale a dire il lamentarsi o come si potrebbe anche dire il piangere, il piagnucolare. Allora, in che senso questa cosa? Se ci fate caso, le persone, ma noi stessi e probabilmente anche voi in primis, non siamo esenti da questo tipo di comportamento. Ci lamentiamo praticamente tutti i momenti che ne abbiamo la facoltà, per le cose più disparate. Sì, le cose serie ci mancherebbe altro, ad esempio, che ne so, se una persona c'ha un inghippo molto gravoso, molto dannoso, oppure una malattia, ci mancherebbe altro, e quello magari se ne mal duole, come diciamo. Però ci lamentiamo molto spesso anche delle cose più effimere o delle cose più meno importanti, mettiamola così. Puntualizziamo un aspetto molto fondamentale dal mio punto di vista di questo ciclo di trasmissioni vagabonde. Chiaramente quello che io ci tengo a precisare è che io non sono qui a darvi nessun tipo di soluzione, solamente sono qui a condividere con voi quello che vedo e che in qualche modo mi colpisce nel comportamento dell'essere umano, me compreso, ci mancherebbe altro. Mi auguro che questo input che vi lancio vi sia di stimolo per iniziare a farvi delle domande, se ancora non lo avete fatto, e soprattutto a cercare delle risposte. Io vi offro la mia visione delle cose, che non è giusta o sbagliata, è semplicemente un punto di vista che auspico usiate come metro, diciamo, di comparazione con le vostre idee, le vostre impressioni, le vostre sensazioni sulla vita, diciamo sulla vita, o meglio, anzi, sul comportamento delle persone e chiaramente anche sul proprio comportamento. Perché ritengo che sia un po' azzardato avere l'idea o comunque avere la dire di cambiare gli altri, di far notare agli altri certi sbagli, se da prima non siamo noi stessi a conoscerci interiormente, a capire quali sono i nostri sbagli e anche ad ammettere il fatto che probabilmente facciamo delle cose che ci disturbano se le vediamo fare a qualcun altro, ma che noi facciamo e nemmeno magari ci rendiamo conto. Ecco, dunque, detto questo, alla fine di ogni puntata io mi auguro che alle persone che hanno avuto la felicità di ascoltarmi abbia stimolato un pensiero o solamente una piccola domanda, anche solo se fosse interiore. Chiaramente non vi aspettate da me le soluzioni, perché io, ahimè, non ce le ho. Le avessi avute, probabilmente avrei fatto già bingo mille volte e sarei su un'isola a godermi dei soldi che non ho. Comunque, al di là di questo, vedete, anche in questo momento mi sono, fra virgolette, lamentato del fatto che non ho i soldi per starmene su un'isola. E poi, tra l'altro, chi lo dice? Non è detto, magari in qualche modo ce li potrei anche avere, ma io non ci credo. Semplicemente, allora, lamentarsi, ad esempio, che ne so, qual è una cosa di cui correntemente sentiamo la gente lamentarsi? Ad esempio, io mi capita molto spesso di sentir lamentare le persone perché lavorano troppo, troppe ore tutti i giorni, e comunque troppi anni della vita. Infatti, adesso come adesso, una delle cose che più le persone le colpisce è il fatto di non andare in pensione, di ritardare la pensione, e le persone sono lì a lamentarsi assolutamente di questa cosa qua. E questo è un aspetto molto importante della vita, perché chiaramente la vita ci sembra lunghissima, ma in realtà è molto breve dal mio punto di vista, e la spendiamo chiaramente a lavorare per gran parte del tempo. E quindi ci sono tante persone che si lamentano di questo. Ci sono tante persone che si lamentano appunto di non avere denaro, oppure di non avere fortuna. E chi si lamenta di non avere una moglie? Chi si lamenta di avercela una moglie? Ed è tutto un intorno a noi e noi stessi, un rimbalzarsi di queste negatività che ci scambiamo con gli altri, sostanzialmente ci scambiamo con gli altri. Quello che io voglio dire è che io ho capito e che sto cercando di fare di rallentare, di lamentarmi sempre di meno. A volte mi capita, ci mancherebbe altro, lamentarmi sempre di meno. Ma perché? Perché io ho l'impressione che facendolo in realtà non mi cambi un granché, anzi non mi cambia assolutamente niente, e se mi cambia qualcosa il più delle volte mi cambia in peggio. Vale a dire, se io mi relaziono con una persona e con questa mi lamento di un qualsiasi cosa, è molto semplice. A volte lo facciamo perché cerchiamo la compassione, cerchiamo la considerazione di chi ci ascolta. Spesso cosa otteniamo? Otteniamo la commiserazione, che è un'altra cosa, che è una cosa anche molto brutta, perché noi ci siamo lamentati, ad esempio, di non avere un lavoro con qualcuno, e questa persona chiaramente non ci aiuterà a trovarne uno, o quantomeno farà proprio il minimo, minimo, minimo, minimo che può fare per noi, perché ma cosa potrebbe fare? Però otteniamo in cambio, otteniamo indietro la commiserazione, otteniamo che magari poi questa persona si lamenta di noi, e quindi scateniamo un'altra lamentela per il fatto che noi ci siamo lamentati con lui di un'altra cosa. Dunque, quello che io sono arrivato a teorizzare è che appunto sia molto più proficuo con le persone e anche con noi stessi all'interno del nostro pensiero, quando siamo da soli in un angolo a pensare, sia molto più semplice o comunque molto più proficuo cercare una soluzione per smuovere le cose se le cose non vanno, per smuovere le situazioni che sono ferme lì, che sono stantie. Piuttosto che lamentarsi appunto della situazione malata stessa, perché chiaramente lamentandosi non è che piova dal cielo una soluzione o un bingo, e a qualcuno succede, uno su mille ce la fa, come diceva Gianni Morandi, però ecco, è come cercare di fare 6 al Superenalotto, ecco, è una chimera, è un sogno. Invece cerchiamo di lavorare su noi stessi per arrivare a comprendere che lamentarsi delle cose non porta profitto, non porta assolutamente profitto. Almeno questa è la mia esperienza. Io poi chiaramente, ci mancherebbe altro, sono qui pronto ad ascoltare eventualmente l'esperienza di qualcuno che invece va nel senso opposto, perché chiaramente questa è la mia esperienza, questo è quello che io teorizzo, non dico assolutamente che sia vero per chiunque, ci mancherebbe altro, e come ho detto prima, avessi una soluzione ve la direi, ci mancherebbe altro. Niente amici, detto questo, vi salutiamo per questa seconda puntata, vi salutiamo, è plurale maestate, se vi saluto, questa seconda puntata finisce qua. Mi auguro di avervi tenuto compagnia, mi auguro di avervi fatto un attimino riflettere, di avervi fatto un attimino pensare a questo aspetto della vita, e forse adesso, uscendo di casa, proverete a lamentarvi un pochino di meno, oppure proverete a far notare alle persone che si lamentano con voi di qualcosa che lamentandosene non è che voi gli trovate una soluzione, ma anzi assorbite quella negatività e la disputate fuori, la rimandate fuori ancora più negativa. Quindi nessuno se ne libera, ma anzi ce ne imprigioniamo ancora di più. Bene amici ascoltatori, vi ringrazio, ciao da Fumino, cari amici vagabondi, alla prossima puntata.